nostro laboratorio è un laboratorio di cucina africana, di sartoria, organizzato dalla nostra associazione Abad ODV in collaborazione con il progetto che si chiama Generazione Comune, finanziato dalla regione Emilia-Romagna. Ho visto che saranno utilizzate delle stoffe africane. Sì, è un corso di sartoria africano. Utilizziamo i tessuti africani che si chiamano wax. Wax è un tessuto anche proprio africano, è un tessuto di cotone che usiamo in Africa. E il laboratorio sarà gratuito, no? Ho letto il che ci saranno. Il laboratorio è gratuito perché è finanziato dalla regione Emilia-Romagna. Sono 10 ore in 5 incontri. Dove si terrà? Allora, il laboratorio si terrà in via Antonio Di Vincenzo. Abbiamo bisogno di 10 donne. Okay. E inizierà il 25 di marzo 2024. Cosa succederà con appunto quello che creerete, cioè i prodotti di questo laboratorio, che vita avranno? Allora, cerchiamo di fare dei vestiti africani con i tessuti che alla fine lo useremo per fare un'esposizione per la nostra associazione, perché questo ricavo che avremo lo useremo come raccolta fondi per l'associazione Abad. Facevi riferimento all'associazione e appunto ti chiedo di cosa si occupa l'associazione? Allora, la nostra associazione Abad ODV, che si chiama Associazione per i Bambini Affetti dalla Drepanocitosi, è stato creato nel 2016, in aprile 2016, perché avendo un figlio affetto della malattia, la drepanocitosi, che è un'anemia falciforme, abbiamo creato questa associazione, una malattia che è molto molto diffusa in Africa, anche qui un po' in Italia, perché in Sardegna ce n'è anche a Ferrara, e somiglia un po' alla talassemia. Noi abbiamo creato questa associazione, che è un'associazione sociosanitaria. Facciamo anche delle attività culturali. Definiamo un altro corso di strumento musicale, sempre organizzato da Abad, in collaborazione sempre con Generazione Comune e sempre finanziato dalla regione Emilia-Romagna. Quindi noi non ci basiamo solo sulla malattia, ma cerchiamo anche di farli divertire. Come questa malattia è meno conosciuta, avremo bisogno anche di più possibilità di spargere la voce per la sensibilizzazione e informare le persone sulla malattia, perché si può anche evitare. Si può evitare una malattia che si può evitare. La nostra associazione si chiama Abad e abbiamo bisogno di collaborazione pure. Sì, sì, metterò i vostri contatti. Perché siamo anche stranieri e vogliamo anche partecipare all'inclusione e allo sviluppamento anche del paese, soprattutto di Bologna, dove viviamo noi. Quindi c'è anche una questione di integrazione. Sì, una questione di integrazione. Abbiamo anche bisogno di lavorare sull'integrazione. Magari chi ci può dare una mano, noi siamo qua. È un'iniziativa, è un'associazione che si occupa anche quindi di far emergere che alcune situazioni come la malattia e l'integrazione non sono cose separate, ma a volte si manifestano nelle stesse persone, no? A volte sono le stesse persone che già dovrebbero essere incluse in un territorio, poi certo, sono affette anche da malattia. Perché noi facciamo servizi anche alle persone immigrate, aiutiamo anche facciamo assistenza alle famiglie con i loro figli all'integrazione e all'accesso ai servizi anche. È un lavoro importantissimo. Ti ringrazio, Nabu, per avercelo raccontato. Ti auguro buon lavoro e grazie. Buona giornata. Altrettanto.